Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Abbiamo già avuto modo in questa trasmissione di parlare di certificazione ambientale. Oggi vorremmo fare un passo in più e parliamo di impronta ecologica, ovvero come calcolare il costo ambientale del nostro vivere. Ne parliamo con Michele Crivellaro, responsabile marketing e comunicazioni di CSQA Certificazioni, il più importante leader nel settore agroalimentare e nel settore appunto delle certificazioni. Benvenuto alla nostra trasmissione. Ecco, vorremmo capire di che cosa stiamo parlando. Cioè, intanto, cosa significa una certificazione nel settore agroalimentare? Poi magari capiamo anche cos'è l'impronta ecologica dei prodotti agroalimentari. La certificazione solitamente si concretizza in un certificato che dà all'azienda che lo ha richiesto attestazione che la sua azienda, il suo prodotto, un insieme dei suoi prodotti sono sostanzialmente conformi a delle norme che descrivono dei requisiti da rispettare. E quindi nel settore alimentare ci sono generalmente due tipologie di certificazione, di sistema e di prodotto. Quelle di sistema riguardano le aziende, quelle di prodotto invece riguardano le caratteristiche di un prodotto. Per prodotto alimentare stiamo intendendo sia il prodotto dell'ortofrutta, sia anche il risultato poi della sua trasformazione. Assolutamente sì. Una conserva. Il prodotto può essere una pera, una mela, oppure può essere una conserva di pomodoro, una confezione di riso, una confezione di pasta. Un prodotto agroalimentare lascia una sua scia anche a livello ambientale, che voi chiamate impronta ecologica. Sì. Allora, sostanzialmente sempre di più sia a livello di istituzioni europee italiane, ma anche a livello internazionale, l'impatto ambientale non viene più valutato solo a livello del sito produttivo, ma si cerca di ragionare su quello che è chiamato il ciclo di vita di un prodotto, cioè l'impatto ambientale che viene generato dal sistema di attività che determinano la vita di quel prodotto, quindi intendendo sia dalla fornitura delle materie prime e quindi la lavorazione del prodotto, la sua distribuzione fino al punto vendita dove noi lo compriamo, il consumo e addirittura il post consumo. Una conserva di pomodoro, una bottiglia di vino, una confezione di pasta ha un impatto ambientale anche dopo che noi l'abbiamo consumato. Basti pensare all'eventuale destinazione che può avere il packaging. Se è riciclabile va a finire nel riciclabile, se non è riciclabile va a finire nel secco. Ecco, quali sono i principali elementi di questo impatto? Cioè, sicuramente il consumo d'acqua, dicevamo il packaging. Le categorie di impatto vengono definite in questo caso anche da standard internazionali e vanno dal contributo, le famose gas serra, impronta carbonica, il contributo ai cambiamenti climatici, quindi le tonnellate equivalenti di CO2 che vengono emesse, gli aspetti legati all'ecotossicità del prodotto, gli aspetti legati alle sostanze lesive dell'ozono, il consumo di suolo che può determinare questo prodotto e poi ce ne sono ancora altre. Esiste un'unità di misura con la quale si calcola poi, che quindi trasformate tutte queste caratteristiche in qualche cosa che poi si può paragonare? Per ognuna di queste categorie di impatto è possibile determinare attraverso misure e stime una quantità di acqua che è riconducibile a un certo tipo di prodotto, quindi un volume, oppure le tonnellate equivalenti di CO2. Ovviamente c'è la problematica di come arrivare a quantificare questi impatti. Certo. Ed è da questo punto di vista gli organismi normativi internazionali consentono di utilizzare degli standard che aiutano nella quantificazione e rendicontazione degli impatti ambientali. Ecco, qual è il principale elemento appunto che va considerato di questa impronta? In questo momento sicuramente... A noi viene da pensare il consumo di carburanti fossili oppure l'impiego di, non so, in agricoltura. Sì, ecco, le due categorie di impatto che in questo momento vengono prese con maggiore attenzione da parte delle aziende produttrici del settore alimentare sono sicuramente l'impronta carbonica, quindi le emissioni di CO2 legate al ciclo di vita di questo prodotto e l'impronta idrica. Ecco, su quest'ultimo aspetto è una tematica emergente che ancora alcuni aspetti di quantificazione devono essere consolidati. Ci fermiamo per un istante, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the weeping willow, drowning in my tears. You can go swimming when you're here. I'll be the rainbow when the sun is gone. Wrap you in my colors and keep you warm. That's how strong my love is, darling. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the ocean, so deep and wide. I'll get out the tears whenever you cry. I'll be the breeze after the storm is gone, to dry your eyes and love you warm. Strong my love is. It's so deep, it's so wide. I love, love, love, love, love. Wanna make you cry now. That's a love, love, love, love, love. That's how strong my love is. It's so deep, it's so wide. I love you, love you, love you. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di impronta ecologica, lo stiamo facendo con Michele Crivellaro, responsabile marketing e comunicazione di SQA Certificazioni. Abbiamo parlato un po' di quali sono gli elementi con cui si considera l'impronta ecologica. Possiamo fare qualche esempio rispetto ai prodotti di maggior uso comune, quali hanno un impatto maggiore sull'ambiente? Parlare di impatto maggiore significa andare poi a valutare caso, perché ogni azienda può avere un suo livello di organizzazione e di tecnologia tale per cui non è paragonabile a quella di un altro. Diciamo che a livello europeo, se noi parliamo del settore alimentare, e questo è uno di quei settori che attualmente è escluso dall'ecolabel. L'ecolabel è quello che normalmente voi trovate il fiore sui fazzoletti di carta o su alcuni elettrodomestici, sulla carta igienica, su alcuni prodotti. Purtroppo l'alimentare non è ancora stato inserito all'interno. Per cui da questo punto di vista esistono solo ed esclusivamente delle certificazioni volontarie che le aziende richiedono senza essere obbligate, diciamo, dalle istituzioni. In questo caso è utile andare a vedere o l'etichetta del prodotto o andare sul sito dell'azienda, e lì è possibile capire con maggiore attenzione. Quindi, per capirci, ci possono essere due prodotti, per esempio due conserve, due bottiglie di vino, identiche come quantità, come contenuto, che però possono, di due produttori diversi, avere un'impronta ecologica totalmente diversa, pur essendo un prodotto simile. In questo caso, per capire quale ha l'impronta ecologica meno impattante, e appunto bisogna... Il consumatore deve fare un piccolo sforzo e cercare di capire due cose, secondo me, fondamentali. Innanzitutto, se effettivamente quello che viene dichiarato riguarda l'azienda o riguarda il prodotto stesso, sono due livelli diversi. La seconda cosa, se quello che lo sta dichiarando al consumatore è un'autodichiarazione o sull'etichetta del prodotto o da qualche parte nel sito aziendale, in qualche documento aziendale, c'è un riferimento a un qualcosa di codificato, ad esempio norme o regolamenti europei, perché questo dà garanzia che la metodologia di riferimento è una metodologia consolidata e che rappresenta lo stato dell'arte della scienza. Per esempio, una certificazione biologica di un prodotto potrebbe anche essere garanzia, anzi probabilmente è garanzia di un minore impatto ambientale. Il biologico nasce come strumento per ridurre l'impatto ambientale nella fase di coltivazione, però non lungo il ciclo di vita del prodotto. Mentre un prodotto fosse definito a chilometri zero, questo non significa necessariamente, perché chilometri zero vuol dire risparmio nella distanza, ma forse non necessariamente nella produzione. Assolutamente, questo è esatto. Certo è che le fasi di trasporto incidono in maniera significativa, ad esempio sulla categoria di impatto emissioni di gas serra. Rispetto al packaging invece, quali packaging sono da preferire? Ma allora, qui il settore alimentare purtroppo deve cercare di unire l'utile al dilettevole, mi spiego meglio. Il packaging svolge varie funzioni, funzioni che servono a garantire la salubrità del prodotto, la conservazione, quindi, ma sempre di più si cercano packaging che garantiscono anche la successiva riciclabilità o compostabilità. Quindi, per esempio, un esempio classico che voi trovate oggi è quello di avere delle confezioni che siano riciclabili. Ci sono qualche altra questione nel quale possiamo parlare? Ma direi che quello della prospettiva di valutare i prodotti in base al loro ciclo di vita è sicuramente un'evoluzione culturale che da questo punto di vista l'Europa è all'avanguardia. In effetti in altre parti del mondo, soprattutto dove ci sono coltivazioni con agricoltura estensiva o appunto con minore attenzione anche alla provenienza dei prodotti, pensiamo per esempio alla deforestazione eccetera, questo tipo di certificazioni sono difficili da gestire, immagino, oppure forse darebbero risultati molto negativi. Direi che la globalizzazione ha sicuramente allungato le catene di fornitura e quindi le filiere di riferimento. Però ci sono anche delle evoluzioni da questo punto di vista, ad esempio sempre nel settore del packaging, oggi esistono delle certificazioni che consentono di dimostrare che una certa in tutto il 100%, una percentuale ad esempio di quel packaging in carta o cartone deriva da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità e non da tagli illegali. La ringrazio per questa interessante chiacchierata, anche perché ci fa capire come consumatori, oltre al prezzo e oltre ad alcune caratteristiche che siamo abituati, forse dovremmo anche fare un po' un cambio di mentalità e guardare i prodotti che andiamo ad acquistare con un occhio diverso, ma che richiede forse anche una nostra maggior formazione ed educazione a quello che ci sta di fronte, forse iniziando con leggere l'etichetta, immagino. Non si smette mai di imparare, purtroppo. Grazie. Arrivederci e grazie a lei. Passiamo adesso ad alcune notizie. In Veneto il perdurare delle precipitazioni e il marzo più freddo degli ultimi 50 anni sta mettendo in crisi le fasi di lavorazione per la coltivazione delle grandi colture estensive. È quanto segnala Coldiretti, evidenziando inoltre che in questo periodo gli agricoltori dovrebbero essere impegnati nella preparazione dei terreni, ma le piogge prolungate stanno allungando i tempi. Le semine di barbabietole sono, ad esempio, in forte ritardo e compromesse, quelle di mais ad alto rischio e anche il frumento rischia di subire conseguenze dal ristagno idrico che potrebbe danneggiare per asfissia le piantine ancora piccole. Vi è infine la preoccupazione per l'insorgere di gelate tardive su alberi da frutto e viti, in particolare le piante di ciliegio, pere e pesche, che stanno per iniziare la fioritura. Nel 2012 sono calate dell'1% le aziende florovivaistiche venete, ma è aumentata la superficie dedicata a questa attività tipica della nostra regione. Si parla di circa 3.750 ettari per un totale di un più 18%. La produzione complessiva regionale stimata supera invece i 2 miliardi di piante con una crescita del 16%. Sono cresciute anche le vendite fuori regione, arrivate al 6% del totale prodotto. È quanto rivela un report di Veneto Agricoltura, secondo cui ad essere in crescita sono soprattutto gli investimenti in coltura protetta, che vedono triplicare le superfici coltivate in serre sia fredde che calde. il minore incremento di superfici coltivate in piena area appare legata più alla possibilità di sfruttare le serre per la produzione di energia elettrica, ovvero impianti fotovoltaici, che alla reale capacità del settore di attrarre investimenti. Come ultima notizia, ricordiamo che si tiene a Verona dal 7 al 10 aprile la nuova edizione del Vinitaly, la principale fiera del settore vitivinicolo in Italia, un settore che ha superato i 4,7 miliardi di euro di export. Dallo scorso anno la fiera inizia la domenica e termina il mercoledì per agevolare la partecipazione degli operatori del settore. Tutto il programma e altre informazioni sul sito internet www.vinitaly.com. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima, vi ricordiamo che ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.